Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. E buona domenica! E buona domenica! Buona domenica! Purtroppo si stanno accorciando le giornate, inizia a fare freddo, io c'ho tanto freddo, Si accorciano le giornate freddo. E anche questi blocchi, noi li chiamiamo così in gergo, questo blocco durerà pochissimo perché poi avremo il resto della puntata, vorremmo dedicarla maggiormente a comprendere cognizione, mente, come linguaggio. Gli animali parlano come con animali, noi, contano, sì, soprattutto ragionano. Vorremmo spiegare a Giuseppe Cruciani, e spero che tu ci stia ascoltando, che cosa significa che le galline comprendono geometria euclidea, e su questo dopo. Ma poi dovremmo fare delle puntate speciali per capire se Cruciani capisce la geometria euclidea. Secondo me fa prima la gallina. Detto ciò, veramente, a parte gli scherzi, parleremo veramente di cose interessantissime. Io posso dire una cosa, effettivamente. No, è giusto per... Se effettivamente, come fa bene, no? Beh, per me piace quando lui scherza su queste cose qua, estrapolate dei pezzetti della nostra trasmissione, sembrano veramente dei pazzi. Cioè, tolto il contesto, io quando parlavo... Ma lui quello vuole, che noi alla gente sembriamo dei pazzi. Ma va bene, finché mi fa ridere, ben venga. Allora, invece, introduciamo, no, questa cosa qua, a proposito di linguaggio, sai quante volte noi diciamo al cane, piccolino, la mamma è tornata, adesso se ne va via, tutte queste cose qua che possono... Io spesso. E quante volte la gente dice... ma il mio cane mi capisce quando io gli parlo, quello là, e piega la testina così, e piega la testina così. Ma tu indovina perché? Cioè, sarà vera questa cosa? Perché non è scemo? Esatto, parole povere praticamente, perché non è scemo. Allora, hanno fatto uno studio. Fallo in barese. Hanno fatto uno studio pubblicato su Current Biology e svolto all'Università del Sussex. Allora, praticamente lo studio ha coinvolto 250 cani, no? E hanno stabilito attraverso questo studio che effettivamente i nostri cani comprendono quello che noi gli diciamo. Non sappiamo fino a che punto possono spingersi a comprendere le sottigliezze, ma lo fanno. Per esempio, quando tu gli parli in modo familiare, collegano un emisfero del cervello. Quando gli parli invece in una lingua che loro non conoscono, togliendo per esempio le consonanti o le vocali, piegano la testa dall'altro lato perché stanno ascoltando con l'altro emisfero. Come dire, che cacchio stai dicendo? Ma tra l'altro lo fanno esattamente come facciamo noi esseri umani, perché abbiamo collegato l'orecchio destro, l'emisfero sinistro e viceversa. Quello sinistro tende a comprendere i fonemi, quindi quello che stiamo dicendo, quello a destra invece è il tono emotivo, e più le informazioni. È come il mio lavoro. Poi ho letto l'articolo qua, tra l'altro questo articolo, scusate, è scritto da Carola Traverso Saibante e pubblicato su Corriere.it. Esplica molto bene questo tipo di studio. Allora, oramai non si può più dire che gli animali non capiscono, gli animali non sono senzienti. Dipende dagli animali. Ma no, poi anche questa cosa qua di mettere in un unico contenitore la mosca e lo scimpanzé, a me non va, no? No, beh, certo, la mosca e lo scimpanzé, la mosca ci avrà il suo linguaggio, lo scimpanzé ci avrà il suo. Sì, assolutamente. No, mi fa ridere molto questa categorizzazione, no, che tutti quanti usano. Cioè, l'uomo... E gli animali. Animali. Siamo tutti quando magari animali. Condividiamo il 98,9% del nostro codice genetico con gli scimpanzé, per esempio. Esatto. No? Quindi non ha senso mettere nello stesso calderone lo scimpanzé e la mosca. Il calderone è diverso da quello dell'essere umano. Esatto. No, magari possiamo dire che noi mammiferi, alcuni mammiferi, siamo un gruppo, e magari poi ci possono essere, che so, rettili piuttosto che insetti. Detto, diciamo, questo, scriveteci a Chiedimi se sono felice @radio24.it, perché noi leggiamo sempre le vostre mail, vi risponderemo e vi coinvolgiamo nella trasmissione. Ora facciamo un piccolo break e partiamo con questa puntata scoppiettante. Un piccolo break. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Solo dalla prospettiva del cane, non solo, di chi c'è il caso di dirlo, perché abbiamo parlato della mitica Nina, la gallina, e abbiamo voluto che... Basta uno sguardo, lo vedo che mi fissa, muove le sopracciglia. Allora, io volevo farti un indovinello. Fammelo. Chi è quell'individuo che a 25 anni guarda spesso la TV? E spesso davanti, cioè gioca con i videogiochi e suona la tastiera, ma soprattutto adora fare sesso di gruppo? Kanzi. Chi è? A Kanzi, se eri preparato. È Kanzi, è questo. Pensavo splendido. Che sparasse lì un Cruciani. Pam! No. Aspetta, ridimmi un attimo quali erano le cose. No, 25 anni. Non è già quello è l'indizio fuori strada. Per suona gamba, la tastiera, forse. Non lo so. Dovrà forse fare senso di gruppo. Avrebbe ecco, potuto trarsi in inganno, non lo so. Salutiamo chiederglielo. Ciao caro Giuseppe, ti diamo altre esatto. Notizie allora, che caro poi... Beppe, vogliamo fornirti nuovi elementi, no, per il nuovo tuo, materiale per il nuovo tuo materiale programma. Per il tuo programma, quindi oggi parleremo di Nina, che a te è tanto piaciuta, la gallina Nina. Parleremo di Kanzi, che è questo bonobo che adora fare sesso di gruppo, ma che è uno fa che fa parte della famiglia degli scimpanzé e che sono famosi bonobi perché pur di non entrare in conflitto e picchiarsi e fare la guerra e farsi la guerra, piuttosto fanno sesso di gruppo, oppure autoerotismo, esatto. Do coio. Parleremo di delfini e soprattutto di geometria euclidea. E qui con noi Silvia Amodio. Rieccoci, ciao Rieccoci. Allora, devo dire che Silvia mi ha mandato un video che Giuseppe quando vuole glielo giro, così se mi dà la mail glielo faccio vedere, perché per far vedere com'è intelligente e com'è fantastica la gallina Nina. È rivolto proprio a lui, un video proprio per lui, per cui insomma non proprio se lo può dedicato. Quindi comunque grazie Beppe, perché insomma, è stato molto simpatico. No, allora molto c'è stata questa sì. frase, no, che ha destato scalpore. Tu dici Nina conosce i rudimenti della geometria euclidea. Che cosa intendevi dire? Beh, facciamo che lo dice per bene poi il professor Giorgio Vallortigara, che mi pare di capire. Sarà che dopo chiameremo, no, sicuramente sarà molto rimanete più. Con noi, perché avremo quindi tra poco in linea uno dei più eminenti scienziati sulla mente degli animali, si chiama Giorgio Vallortigara, che Silvia ci ha già anticipato. Senti, invece passando da Nina al sesso. Al sesso, esatto. Di che cosa ci vuoi parlare, Silvia? Non ho capito. Qua ci ascoltano i bambini. Ma avete stuzzicato voi. Sentiamo. No, vogliamo parlare dei bonobo? Parliamo di quello che vuoi, perché se fosse per allora, noi ti possiamo innanzitutto, telefonare. Innanzitutto, Nina sta bene? Nina sta bene, qua che si spiumetta, ha fatto Ma è meraviglioso. No, racconto un altro aneddoto. Scusate, che ieri sono andata in triennale perché faccio parte di una mostra collettiva, c'era questa inaugurazione molto bella, anzi, andate a vedere questa mostra che c'è in questi giorni. Come si chiama? Perché diciamolo, tu sei anche fotografa, no? L'altro sguardo. Sarei anche quello. E la cosa divertente è che tutti parlavano della Nina. Ma va? Veramente, la sua fama praticamente la precede, molto divertente. Sì, sì. Bene. E avevano sentito anche la trasmissione, per cui molti appunto parlavano anche della trasmissione. Bella, fantastico. Ma tu avevi portato molto Nina alla mostra? No, non l'ho portata. Okay. No, non l'ho portata. Allora, ma passiamo al sesso di gruppo di Kanzi. Sì. Allora, i bonobo, lo sai, sono questa specie di scimpanzé riconosciuta poi ufficialmente, mi sembra solo negli anni 70, adesso non mi ero andata a ripassare tutto, ma è molto interessante, intanto vicinissima a noi, hanno oltre il 99% del DNA simile, uguale al nostro, e poi perché hanno delle caratteristiche comportamentali molto, molto particolari e diverse dai loro cugini. La più, diciamo, appariscente, quella che avete citato prima, cioè che è quella di stemperare le tensioni facendo sesso. Loro veramente, infatti Frans de Waal, che è un famoso primatologo olandese, poi emigrato in America, che tu probabilmente conosci, e aveva scritto questo articolo tanti anni fa, che appunto parlando dei bonobo aveva intitolato "Fate l'amore, non fate la guerra", perché qualsiasi tensione viene stemperata attraverso rapporti sessuali. Ne approfitterei. Allora, Frans de Waal, che questo eminente scienziato, ha scritto L'ateo e il bonobo, tra i vari libri che ha scritto. Bravo. E qual è la tesi? La tesi è: non abbiamo bisogno di Dio per renderci conto che la moralità, la giustizia, l'etica hanno radici biologiche. Cioè, noi, per via del fatto che siamo animali prima che esseri umani, siamo già dotati di capacità che ci possano far agire per bene l'uno con l'altro. Non abbiamo bisogno della moralità di Dio. Però adesso avete alzato il livello, avete alzato molto il livello intellettuale e Cruciani ho paura che non capisca. Dobbiamo un attimo abbassarlo. Allora, Cruciani, questi qua quando vogliono evitare di litigare, scopano. Esatto. Sì, maschi, no, ma la cosa interessante: maschi con maschi con femmine. Certo. Docoio coio. Difatti, io prima ho detto docoio coio. Senti, ma a parte questo scimpanzé in modo particolare, tu ci hai detto. L'hai conosciuto. L'ho conosciuto. Adesso a parte gli scherzi. Per chi si occupa di queste cose, uh-huh, ovviamente è un grande onore. Qui ero andata a Des Moines, nell'Iowa, questo posto sperduto in mezzo agli Stati Uniti, dove c'è questo centro di ricerca. E la particolarità è che questi Arcanzi e il suo gruppo di amici capiscono perfettamente l'inglese. Ma veramente? Ma tu come fai? Quindi tu hai fatto una prova? Cioè hai detto qualcosa in inglese? Io ho fatto una prova in inglese, ho fatto la spiritosa pensando di non essere capita. Vista. Appena sono arrivata, c'era uno scimpanzé lì affacciato al centro, ero assolutamente da sola. E nel mio inglese, che non è una stupidata anche il fatto di non essere magari di madrelingua, no? Uh-huh, perché quante certo. volte noi parliamo in inglese con un'altra persona e dice non ho capito e sì. tu pensi di aver pronunciato esattamente sì, invece sì. quello che ti chiedevano sì. di dire, no? E ha una scimmia di passaggio, diciamo uno scimpanzé di passaggio, gli ho detto apri la bocca e tira fuori la lingua, no? Uh-huh. E questa ha aperto la bocca e ha tirato fuori la lingua. No! Sì, ti giuro, per ma io veramente ho fatto, cioè così volevo fare. Scusa, un po' ma Peter Gabriel ha conosciuto Kanzi? Peter Gabriel suona regolarmente con Kanzi. Ah, allora, faccio... Sì, allora ti finisco di spiegare un attimo loro come sono, sì. come sono organizzati, diciamo, poi ti racconto anche di Peter Gabriel. E quindi praticamente loro capiscono perfettamente la lingua parlata, perché diciamo che l'approccio della Sursa Vajorambo, questa primatologa, è stato quello di inserire in una cultura, diciamo così, umana questi scimpanzé affinché imparassero un linguaggio. Lei parte dal presupposto che un bambino, perché contrariamente a quanto viene fatto magari con altre specie, no? Uh-huh. Dove ci sono più le sessioni, per cui dalle 3 alle 5 ti insegno qualcosa, mentre uh-huh. lei ha vissuto a stretto contatto con questa scimmia come se fosse, diciamo, in famiglia, no? Uh-huh. Per cui lui ha assorbito tutto quello che si può assorbire nella vita di tutti i giorni, certo. incluso la lingua parlata. Per quel che riguarda la produzione del linguaggio, che è un'altra cosa rispetto alla comprensione certo. del linguaggio. Certo. Sappiamo per esempio che un bambino di 2-3 anni capisce perfettamente quello che gli dice, magari ma non è sa in ripetere. Grado di articolare un discorso. Nel caso dei primati lo sappiamo per ragioni morfologiche, la loro struttura non consente certo. di produrre un linguaggio per ovvie ragioni, anche se non erano così ovvie negli anni 50, mm-hmm. no? quando venne iniziato a insegnargli a parlare. Con scarsi risultati. E quindi cosa è stato fatto? Ha una serie di lessigrammi che non necessariamente hanno un legame iconografico, per cui una mela non corrisponde a una mela, per mm-hmm. intenderci potrebbe essere una X, corrisponde a un linguaggio mm-hmm. che loro digitando su una tavoletta che si portano in giro per questioni di comodità o addirittura su un computer praticamente ti digitano la frase, quindi a ogni lessigramma corrisponde una parola, un'azione e quindi non c'è soltanto comprensione ma anche produzione, non c'è una la produzione con le parole come noi, perché la loro laringe mi sembra non è strutturata, è una parte del cervello, la parte del cervello. Non è organizzata per il linguaggio che appartiene alla nostra specie, ma questo non significa che loro ovviamente non capiscano. Capiscono, ma comunque no? Io ero rimasta già colpita l'anno scorso, 2 anni fa, che Angelo mi aveva fatto vedere la velocità che hanno le scimmie, i scimpanzé, i primati, di fare la sequenza di numeri. Tu l'avrai vista sicuramente. Sì, no, ma che poi appariva un flash, un tot numero e loro li sapevano. Guarda, una roba emozionante. Allora, adesso giusto per apprezzare che ci sono intelligenze diverse. Esatto. C'è una scala non unica. Sopra, esatto. No, difatti, al di là delle battute, c'è cioè, comunque rimane il fatto che bisogna rispettare veramente qualunque forma di vita, perché certo. ognuno ha la sua intelligenza e la sua sensibilità. Cioè, in quel caso là, in quella prova, lo scimpanzé è molto più rapido di un essere umano. Ma questo è il punto. L'essere sì, umano sì. non riesce neanche a vederli quei numeri, lui soltanto li vede, ma poi sa riprodurre esatto. tutta la sequenza. Questo ci fa capire come se loro utilizzassero come noi una scala scimpanzé centrica, direbbero che noi scimpanzé siamo più intelligenti degli esseri sì, umani. Sì, esatto, voi uomini degli sfigati, sarei d'accordo con loro. Ma c'è un aneddoto carino, scusa, legato a Kanzi, perché in realtà i ricercatori, quando hanno iniziato a fare questi studi, si erano concentrati su sua mamma Matata, e per non così allontanare il piccolino dalla mamma lo lasciavano nella stanza mentre loro cercavano di insegnare questi linguaggi a sua mamma, ma con scarsi risultati, no? Ed erano anche un pochettino scoraggiati, fino a quando a un certo punto Kanzi è andato da uno dei ricercatori e digitando sulla tavoletta gli ha chiesto: vorrei una mela. Anche tutte le attenzioni si sono ovviamente concentrate su di lui, pensando inizialmente che fosse stata una casualità. Invece si sono accorti che lui passivamente aveva assorbito e imparato quello che stavano cercando di insegnare alla mamma, per cui poi dopo gli studi ovviamente sono partiti con lui, i quali guardano tutti la televisione e che meraviglia. Guardano, preferiscono i film dei bambini. Senti, con gli animali. Però vedi, hanno anche una preferenza. Siccome il nostro tempo è esaurito, ma ti va di rimanere un secondo con noi? Sì, grazie. O devi scappare? Dai, andiamo alla pubblicità e tra poco ci sentiamo. Ciao, tra poco. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. E stavamo parlando con Silvia Modio e io sono curiosa di sapere, Silvia, cosa è successo fra Peter Gabriel e Kanzi? Allora, niente di quello che abbiamo detto prima. No, è molto interessante perché Peter Gabriel si è appassionato ai Bonobo e a Kanzi in particolare. Intanto ricordo che purtroppo è una specie minacciata, ecco. E quindi diciamo che anche questi studi possono così servire, si spera, ad attirare l'attenzione su questi animali straordinari. E tra le varie passioni che ha Kanzi, incluso il disegno, guardare la televisione, giocare coi videogiochi e sfogliare le riviste, lui è cresciuto anche facendo molto delle associazioni tra le immagini, le parole, per cui insomma lo vedi che è sempre lì che sfoglia, che legge tra virgolette, anche la passione della musica, per cui non so come sia nata questo rapporto fra di loro, questa amicizia, però molto spesso Peter Gabriel va a trovare Kanzi e suonano insieme, nel senso che Kanzi, ci sono dei filmati penso da qualche parte, nel senso che Kanzi suona le tastiere e Peter Gabriel armonizza sulle note di Kanzi. Beh, ma fantastico. Insomma, ma è scatenatissimo. Ma vedete, veramente scatenato. Adesso li vado a cercare. Fra l'altro, Peter Gabriel è una persona molto attenta e sensibile a tutto ciò che è l'ecologia, le persone che hanno più bisogno. Quindi è uno che si adopera tantissimo e si mette sempre molto a disposizione, prende sempre una gran bella posizione proprio nell'aiutare chiunque sia in difficoltà, animali compresi, e la natura pure. Allora, per nostra gioia qui a Radio 24 abbiamo con noi Giorgio Vallortigara, che insegna cognizione degli animali, all'attivo la pubblicazione di diversi libri, pubblicazioni scientifiche, via dicendo. Insomma, poi me lo confermerà lei, professore. Buongiorno. C'è? Buongiorno. Eccoci. Buongiorno, professore. Qualche tempo fa avrete sentito ai telegiornali di questa ricerca che ci fa comprendere lo stato d'animo dei nostri amici animali a seconda se scodinzolano più a destra o più a sinistra, e quella ricerca mi sembra fosse stata seguita da lei, giusto professore? Giusto, sì, ci siamo occupati, insomma, anche di questo. A livello internazionale conosciuto, ce l'abbiamo in Italia, noi abbiamo detto ma perché non interpellarlo, soprattutto quando Cruciani si chiede della geometria euclidea, no, della gallina nina. Allora Silvia l'altra volta si è fatta scappare questa cosa qua, che la gallina nina è capace di rudimenti di geometria euclidea, giusto Silvia? Non la nina, quelle che studia il valor di gara. Quelle che studia il valor di gara, okay. Ok. Ci può spiegare professore che cosa si intende con questo? Questa è una cosa che è stata documentata in varie specie animali, non soltanto nelle galline e nei pulcini in modo particolare. Ma, provate a immaginare di essere in una stanza rettangolare, a forma di rettangolo, e che in un angolo ci sia qualche cosa che vi piace tantissimo. Poi io vi porto fuori dalla stanza, vi disoriento un poco, vi rimetto dentro la stanza e la stanza è interamente uniforme, non ci sono finestre, non ci sono porte. E i muri sono tutti bianchi e il vostro compito, se ne siete capaci, è di ritrovare l'angolo originale. Così di primo acchito sembra impossibile, però in realtà è impossibile. Se la stanza fosse un quadrato non c'è modo di distinguere i quattro angoli, ma se la stanza è un rettangolo ci sono due angoli che sono sicuramente sbagliati e due che sono giusti. E questo lo si può ricavare semplicemente sulla base di due informazioni, e cioè in un rettangolo la lunghezza delle pareti è diversa, c'è una parete lunga e c'è una parete corta, e in più noi siamo capaci di distinguere la destra dalla sinistra. Mettendo assieme queste due sapienze, destra e sinistra, lungo, corto, si può risolvere il problema. Questo è quello che fanno le galline, e fanno anche i bambini piccoli, e fanno anche le scimmie e vari altri animali. È un rudimento, diciamo così, di geometria che è basato sulla capacità, diciamo così, di utilizzare quelle che i geometri chiamano proprietà metriche, cioè distinguere una superficie lunga da una corta, e quello che i geometri chiamano proprietà di senso, cioè distinguere la destra dalla sinistra e metterle assieme. Bellissimo. Ah, fantastico davvero, vedi, c'è sempre da imparare, anzi c'è tantissimo da imparare. Ci sono delle cose che nell'arco della sua carriera la gente ha detto, cioè oltre a questa cosa qua che a me mi stupisce, no? Questa, ma ce ne sono delle altre che secondo lei vale la pena di raccontare alla gente comune, che fuoriesca da queste aule universitarie? Beh, ce ne sono molte in realtà, per esempio una che è stata molto discussa, raccontata anche nel passato, riguarda i numeri, per esempio. Evidentemente per avere, trattare i numeri nel senso proprio come si fa a scuola, bisogna avere dei simboli, ma in realtà è possibile anche far di conto e condurre operazioni aritmetiche, per esempio anche con strumenti di tipo non simbolico. Questo è quello che fanno gli animali, per esempio noi anni fa abbiamo fatto degli esperimenti con i pulcini. I pulcini, voi sapete, appena nati, se vengono allevati con degli oggetti, anche artificiali, si affezionano moltissimo per via di un fenomeno che è stato raccontato da Conrad Lorenz, che si chiama l'imprinting. Ah, l'imprinting, famoso imprinting. Esatto, normalmente l'imprinting si verifica sulla chioccia e sui compagni, però in laboratorio lo possiamo riprodurre facilmente, per esempio con delle palline. Ora provate a immaginare un compito di questo tipo: prendo dei pulcini e li allevo, per esempio, che so, con tre palline, e prendo un altro gruppo e li allevo con quattro palline, e poi provo a fare dei test di scelta. In fondo ad un corridoio ci sono da una parte tre palline e dall'altra parte quattro palline. Sono capaci di distinguerle, di andare dove ce ne sono di più, scegliendo dove ci sono più compagni? La risposta è sì. Sono capaci di fare anche cose più complicate, per esempio se io faccio sparire dietro uno schermo un certo numero di palline e un certo numero dietro un altro schermo, poi mentre il pulcino lì che guarda, alcune palline le sottraggo da uno schermo e le sposto dall'uno all'altro, quindi il pulcino deve tenere a mente quante palline ho nascosto lì dietro, poi quante ne ho sottratte, e alla fine può andare dove si ricorda che ce ne sono di più. Quindi fa delle addizioni e poi fa delle sottrazioni e le fa correttamente. Ma è fantastico. Ma è fantastico veramente. Questo dovrebbe ancora di più far capire a chiunque che gli animali sono esseri senzienti anche loro, che provano dolore, paura, stress, amore, gioia, felicità come noi, e non sono qualcosa, sono qualcosa di diverso, ma non qualcosa di inferiore o da... di cui non prende sicuro più nell'ambito della filosofia, credo. Sì, però, Meno interessato. No, invece io, siccome i nostri ascoltatori stanno aspettando ancora dalla scorsa puntata l'esperienza di Silvia Modio con i delfini, allora le chiediamo che cosa è successo e poi chiediamo al professore se ci vuole dare o se si vuole illuminare anche da questo punto di vista. Silvia. Sì, eccoci. Allora ve la racconto molto velocemente perché sono affascinata da quello che sta raccontando il professore, perché poi certifica tutte le mie supposizioni sulla NIN. Io ho fatto questa tesi alle Hawaii sulle competenze linguistiche dei delfini, ovvero sulla loro capacità di comunicare con l'uomo attraverso dei linguaggi artificiali, in quel caso di tipo gestuale oppure acustico. e quindi un po' come per Canzi, come abbiamo detto prima, in questo caso diciamo ad un gesto corrisponde una parola, un nome, un'azione, eccetera, eccetera. Sì. E combinando l'ordine di questi gesti o di questi suoni è possibile dare luogo a delle frasi che hanno un significato o semantico o sintattico molto diverso. Combinando le parole in modo diverso il significato cambia, no? Faccio un esempio molto molto semplice: A va da B è diverso da B va da A. E le frasi possono contenere fino a 5 termini e se facciamo solo delle prove capiamo che possono essere dare luogo a delle azioni molto anche molto complesse. Mm-hmm. Metti, che ne so, la pallina di destra nel cerchio di sinistra. Oltretutto queste linguaggi avevano delle grammatiche anche diverse, a testimonianza della capacità poi dei delfini di comprendere profondamente le regole che governavano queste frasi. Diciamo, insomma, è una cosa un po' complicata da raccontare in poco tempo, però è molto molto affascinante. Molto affascinante anche tutta l'aneddotica, no? Che non viene presa in considerazione perché magari scientificamente non fa statistica, però che ugualmente racconta bene quelle che sono poi la flessibilità anche degli animali. Da tutti questi discorsi a me viene in mente, poi magari dirò una stupidaggine, ma in realtà non siamo noi che insegniamo a loro come comunicare, ma siamo noi che dobbiamo imparare a capire il loro linguaggio, il loro modo di comunicare, quindi dobbiamo trovare qualcosa che ci permetta di comprenderci uno con l'altro, giusto professore? Ah, scusami. No, io chiudo solo, cioè dico che è molto interessante perché noi che appunto abbiamo la presunzione di crederci superiori, no? Sì, alle esatto. altre creature, in realtà, come abbiamo visto, gli animali imparano quello che noi gli insegniamo, il nostro linguaggio, i nostri metodi, eccetera, ma noi ancora abbiamo in realtà decodificato molto poco di quelle che sono le loro modalità di comunicazione, sì. Insomma, per cui c'è da tirarsela un po' di meno. Sì, sono d'accordo. D'accordo, professore? Sì, non c'è dubbio che insomma in biologia non c'è superiore e inferiore, non ci sono animali superiori e animali inferiori. Gli animali sono diversi gli uni dagli altri e ciascuno ha eventualmente le proprie specialità e abbiamo ovviamente tantissime cose in comune perché siamo il risultato di una lunga storia evoluzionistica che abbiamo compiuto in parte in solitudine, in parte tutti assieme. Sulla questione del linguaggio, questo è uno, diciamo, dei punti più complicati e più studiati al momento, nel senso che non c'è dubbio che le altre specie posseggano sistemi comunicativi anche molto sofisticati. L'esempio più noto naturalmente è la danza delle api, con le quali le api comunicano dove si trova la fonte di cibo, eccetera. Fino a dove si spingano, diciamo così, le capacità comunicative delle altre specie e quanto eventualmente assomiglino i loro sistemi di comunicazione al linguaggio verbale umano, questo, come sapete, è fonte attualmente di grandissime discussioni tra gli specialisti. Non sappiamo davvero rispondere, per esempio sulla faccenda della sintassi. Mm-hmm. Conosco bene gli studi a cui ha fatto riferimento Silvia con i delfini e quelli condotti su Canzi. È evidente che alcuni aspetti della grammatica e della sintassi possono essere colti, apprezzati anche da altre specie. Non sappiamo se tutti, e in particolare se quell'aspetto generatività, di creatività illimitata che caratterizza il linguaggio verbale umano, cioè la possibilità con un numero finito di elementi, di parole e di elementi costituenti, generare un numero praticamente infinito di frasi corrette, sia possibile in altre specie oltre alla nostra. Non lo sappiamo. Beh, professore, guardi, starei a ascoltarla per ore. Se lei ce lo concede, magari qualche altra volta la coinvolgeremo in una chiacchiera con noi. Se qualcuno vuole approfondire, consiglia una pubblicazione particolare fra quelle che lei ha scritto? Io penso facile da leggere per chi non è un addetto ai lavori, il piccolo libricino che abbiamo scritto recentemente assieme a Lisa Vozza, che intitola Piccoli equivoci tra noi animali, e che è uscito da Zanichelli. Benissimo, okay. Benissimo. Grazie mille professore di essere stato con noi, professor grazie Giorgio Vallortigara, e salutiamo anche Silvia Modio e ci ritroviamo presto. Grazie, saluto tutti, anche il professore. Ciao Silvia, arrivederci a tutti, a tra poco. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Adesso abbiamo un momento veramente... Mi mancano un po' i VIP, no? Tipo, mi stavo chiedendo, chissà come tratterà il suo cane Ornella Vanoni. Io lo so come lo tratta sicuramente bene, tipo me, forse siamo esagerate, sì. Però glielo vogliamo chiedere. Barboncino anche lei, tra l'altro. Barboncino come il mio, glielo vogliamo chiedere? Come glielo vogliamo chiedere? Non mi dite... Ma come? È qui con noi... Ornella Vanoni! Fantastica Ornella, ci sei? ci sono. Come stai? Uai è qui appiccicata a me. Allora, Uai è il barboncino toy di Ornella, che è identico alla mia euforia. Euforia bellissima. Euforia che adesso mi sta leccando il muso. Ciao Euforia. Senti Ornella, a parte che sottofondo ho fatto mettere da Peter la mia canzone preferita, che è Rossetto e Cioccolato. Ma ci sarebbe l'imbarazzo della scelta con te, eh? È un filo di incoscienza. Sai che, cioè, tu hai una voce che non si stanca mai di ascoltare proprio. Sei molto carina. No, ma lo sai, poi non sono l'unica. Ma invece parliamo del tuo rapporto col cane. Il mio rapporto è malato. No, scusami, ma lui si chiama Why? Why? Come perché in inglese? Allora, è successo così. Io avevo un gatto, che è vissuto 23 anni, ho sempre avuto cani, ma a un certo punto della mia vita, siccome è venuta una depressione, non potevo occuparmi di un cane. Allora ho chiesto a mio figlio di portarmi un gatto che è vissuto da 23 anni. Ma caspita! Sì. Prima di morire mi ha fatto miau miau miau miau, mi ha salutato, una cosa commovente. Allora io avevo già puntato gli occhi, volevo un barboncino così. E allora non ce n'erano tanti, adesso continuo a vedere a bizzeffe. Siamo un po' seccate, devo dire. Vabbè, fa niente, facciamo finta di niente. Adesso forse la tingo di blu. Eccoci. E poi sono andata, ho visto una foto e sono corsa dove vicino ad Ancona. Avevo scelto la sorella, che mi sembrava più allegra così. E avevo che scelto il nome Spritz. Quando sono arrivato e mi sono seduto, ho beccato gli occhi di questa. Basta. Di una malinconia. Amore. Di un grondare, un amore così. Aveva l'aria di un cane abbandonato mentre stava benissimo in realtà, ma era il suo carattere. E così mi sono innamorata, l'ho messa sul cuore. E basta. L'ho appoggiata, lì è rimasta per sempre, non si è tolta. Cioè, non è che è andata via. Perché è un cane felice. Perché si dice che sono i cani a scegliere noi, in realtà. Ma non so, ci siamo scelte perché io sono una molto allegra, ironica, però ho delle grosse malinconie, quindi le persone malinconiche mi piacciono. Le riconosci subito. Senti, ma Why cosa fa? Dorme sul letto con te, sta sul divano? Che vita fa? Sul letto. Quando andiamo, per esempio, sai che Svizzera, Austria. Prima i cani e poi le persone. Ecco, vedi. A differenza dell'Italia. Trova la cuccia, benvenuta. Guarda la cuccia sempre chiedendosi che cos'è. Guarda la cuccia chiedendosi sempre che cos'è, non è male. Sì, perché lei ha scritto un pezzo, gliel'ho scritto io, ma io sono un cane molto fortunato perché ho una cuccia così grande che ci può dormire anche la mia padrona. Beh, fantastica, bellissima. Favolosa. Questa cosa. Non mi è ancora chiaro che cosa significa why. Why perché? In inglese. Ma come mai hai dato questo nome? Perché che ne so. Io così. Avevo scelto l'altra che si chiamava, avevo trovato il nome Spritz. Spritz. Quando questo? Mi sono innamorata di questa, ho chiamato una mia amica e mi ha detto why, io ho detto vabbè. Mi piace Wai. Ah, Tagliato Wai. Senti, ma che cosa è cambiato? Cioè, il cane ti ha cambiato qualcosa? Hai l'impressione che ti abbia cambiato qualcosa? Io ho sempre avuto cani. Quindi sei abituato? Sempre. Ho fatto anche tournée con due cani ai tempi in cui si potevano portare i cani negli alberghi e così. Però... non, li ho amati tutti, soprattutto una Blabla, una cocherina che parlava interrotamente, ma lavoravo molto, avevo tutte storie. Adesso che la mia vita è più tranquilla, anche sentimentalmente, io vivo sola, no? Sì. Io sono pazza di gioia con questo cane, cioè questo cane ormai è telepatico, ci guardiamo, quando vuole qualcosa fa fra l'altro i barboncini sono fra i cani più intelligenti, cioè se noi vogliamo come intesa che sviluppano col fatto che intendono quello che tu desideri e ti accomodano molto, quando c'è una sicuramente, ma quando c'è poi una convivenza così stretta come la nostra, cioè dormiamo insieme, poi dopo quando io chiedo la colazione, lei va di là urlando, preparatevi la colazione, non vi permettete più di fare sto ritardo. Senti, ma l'altra sera abbiamo visto te e Renato Pozzetto in un film che è Ma che bella sorpresa con Claudio Bisio, ma io credo di aver riconosciuto Wai, era lei? E lì c'era Wai, come Wai c'è sempre, c'è anche sei. Perché Wai non vive con me, vive di me. Meraviglioso. E allora dove vado viene anche lei. Deve venire anche lei, cioè. Se no fai sul set, tra perché l'altro stava anche per lei. Caso io penso di lasciarla a casa, lei capisce prima, e va in un angolino, gli occhi grondanti di dolore, la coda giù come un'alga marcia, e niente, io esco con questo cuore soffrente, e poi dico sempre, non titolo in giro, non sto tanto bene, tornare a casa... Come non ditelo in giro? Ma sei in radio, Ornella! Lo sanno tutti adesso! Ma io sono innamorata di questo. Ma io ti capisco, guarda, poi ma c'è... Sono malata! Guarda, non siamo lo so, malati. Dipende... Guarda, io non so se siamo noi che siamo malati o se sono quelli che non riescono a capire che cosa... che quanto danno gli animali, quanto ci danno i cani in questo senso. Perché io a volte penso che se noi uomini riuscissimo a provare a fare come loro... che non sono giudicanti, che ti vogliono bene se sei grasso, magro, giovane, vecchio, ricco, povero, malato, cioè loro veramente vivono l'essenza di quello che sono i sentimenti, capito? Bisognerebbe, Angelo dice, loro mi dice... vivono per d'amore e ne danno tanto. Un cane senza padrone è un cane infelice. E ne danno il tanto. Il cane è veramente, veramente ha bisogno dell'uomo. Ma Angelo dice anche perché che... lo deve amare, quindi ama l'uomo. Sì. Ma se tu vai su Facebook, quello generale, no? Va bene che sono anche fotografie o piccoli video che vengono dall'America, per cui hanno dei follower pazzeschi, un numero... Ma oggi la gente segue moltissimo l'animale che salva il bambino, l'animale... Sì. Che dà il gatto che fa amicizia col delfino e stanno i pacini, cioè è talmente orrendo il mondo, fa così male pensare al mondo che solo gli animali si sollevano un pochino, ecco perché i follower sugli animali sono tanti. Gli animali, come sappiamo, sono il bisogno di relazionarsi agli animali iscritto nel nostro DNA, tanto che poi ecco perché si sta meglio dal punto di vista fisiologico, cardiaco, no? Sai che allunga la vita stare con un cane. Ascolta Ornella, intanto grazie di questa chiacchiera con noi, volevo sapere i tuoi prossimi dove possiamo venirti ad ascoltare, a vedere, stai facendo tournée? Dunque adesso no, io non faccio tournée, io adesso ho un trio jazz fantastico con cui mi diverto moltissimo. Bene. E all'inizio erano tutti un po', sai, quelli che dovevano fare i concerti, poi adesso sta funzionando bene, facciamo anche dei festival jazz, adesso mi invita Dado Moroni per esempio a fare una cosa, poi Bollani, insomma. Caspita, ma il mio gruppo è fantastico, i jazzisti devo dire sono molto più divertenti di quelli del pop, non capisco perché. sono più estrosi, senza schemi, se riflette la loro musica. In genere sono abbastanza colti. Vedi. Beh. Allora, io mi diverto moltissimo Diciamo che abbiamo un evento importante in dicembre, perché viene anche Paolo Fresu. Sì. Allora lì mi fa piacere se venite, perché lavorare con Paolo è molto bello per me. Io gli voglio bene da sempre, da quando l'ho scoperto in un certo senso. Eh certo, no, ma guarda, infatti, ascolta, siamo felicissimi. Quindi a dicembre ti verremo, sarai a Milano. Ma uno se vuole sapere dove vai a suonare, a cantare con il tuo gruppo amore, jazz. Se vai su, dunque, ci saranno i manifesti, ci sarà qualcosa. Sì, però allora... giustamente, Rosita. No, che ma io vieni. Ma no. Noi cantiamo sempre, scegliamo il Dal Verme perché è un stato che ci piace molto. Oh, bene. Ok, a Milano al Dal Verme, e poi dopo uno se va su Google e digita Ornella Vanoni e ma anche sul mio profilo c'hai tutte le date. Ma benissimo. Fantastico. Senti Ornella, ti abbraccio forte. Grazie. Spero di vederti presto, magari facciamo una serata assieme ai nostri cani e con gli amici. Sì, con gli amici che avevamo detto. Va bene, ci siamo parlate. Noi ci siamo parlate di nascosto. Grazie. Grazie. Un bacione grande Ornella. Ciao. Ciao, grazie, ciao. Come e noi sono? Per questa domenica, anche questa domenica purtroppo è volata, scrivete, chiedimi se sono felice, @radio24.it. Sto ridendo perché Vaira è sfumato stamattina. No, io pensavo tipo fossimo ancora all'inizio, invece no, purtroppo certo. È già finita la puntata. Ciao a tutti. Un abbraccio a tutti, a presto, ciao.